già una resa molto superiore, già, capito? Poi se ti pone nella tuffa a gas o ce la metti nella cucina va bene lo stesso, è sempre GPL. Dino scavatore. Cazzo, ora ci metti su un gas butano. Ciao, no, vabbè, perché io ho constatato una cosa, Antu, che si consuma prima però il propano, vero? Ma mica tanto. Ma vabbè, dipende da cosa devi utilizzare. Cioè, il propano consuma tutto. Non è che si consuma prima, c'ha più pressione, c'ha. Praticamente, c'è anche il butano, lui. Lo fa la Saras solo, in Sardegna. Ed giù a Cagliari. Praticamente viene messo su quelle bombole che abbiamo noi, liquida, sulle bu, quelle più corte. Capito? Esiste, allora esiste, c'è la miscela, il butano e il propano. C'è il butano, la miscela e il propano. Che il propano è il migliore che c'è. Ma dicono che si consuma prima, ma io non ci credo, è sempre la stessa cosa. Solo che ha più forza e rimane. È un po' diverso, Bene, bene, vabbè, io ho constatato che tra uno e l'altro, sì è vero, come hai detto tu, lo svuota del tutto la bombola, però secondo me dura anche di me, poi sì che qualche volta ho utilizzato più la caldaia che altre cose. A te Claudio, buonasera. Ciao a te, ciao anche Antonio e ciao anche a Luca. Guarda, io aspetto la mia parte, ma non so, adulto, la direttore della Butangaggi, quindi lui ti poteva rispondere in merito. Io non me ne intendo queste cose, Antonio lavora nel settore e ti può rispondere. Ma a me il barile è tutto uguale, non lo so, vabbè. Mucariello, sto vicino, avanti. Vabbè, Claudio. Qua siamo, adesso ho cambiato scrivania, mi piace a far andare un po' le bestioline, c'è un certo nuovo baracchino, mi sta attirando molto. Oddì, ti volevo dire, ti ricordi quella che poi aveva scritto la testa, mi sono completamente dimenticato, quello scambio di colonnina, ma sei ancora interessato? Guarda qua, io ti dico la verità, ce l'ho sempre qua e... Non si come là, quindi se quando vuoi. Sì, la testa mi è uscita tipo adesso in questo periodo dal 4 sono chiamato a casa perché c'è Anna che ha un piede praticamente, c'è un piede appeso che l'hanno operata alla Luce Vago, quindi sono impegnato a casa, non sono andando a lungo, quindi è completamente uscito di testa. Va bene, dai. Perché l'altro giorno ero lì e me l'ha ricordato, ma ti dico, ho detto, se ancora interessato ti faccio sapere, dai, vengo, me la dai, scendo, insomma, facciamo lo scambio, giusto che poi c'è un caffè. Va bene, d'accordo. Maria, va bene, grazie. E anch'io sono riferrato, sto facendo tardi al lavoro. Domani devo approfittare a uscire puntuale perché devo fare una cosa in ufficio e dopodiché si riparte, capito? Poi ho la sedia per Torres, quindi lavoro a Sassari e quindi devo scendere prima per Torres, salirne con furgone e quant'altro, lavoro a Sassari, poi riscendere a riportarci in mezzo a Porto Torres, fare una cosa e l'altra, prepararci il tutto per l'indomani, sicuramente sono le 6 e mezza, 7, fare una cosa e l'altra, insomma non è che sto rientrando presto. E per giunta la sera sto passando a dare gli ultimi ritocchi, avevo una mano anche a Luca, stiamo facendo una cosa a Walter, quindi insomma sono in breve le onde, vai. Già ti conosco, quando ti fermi lo dici, perché tu a fermarti ne sai, ti fermi solo quando stai dormendo. Se dormi, non lo so se dormi, questo voglio anche io la Marisa. Vabbè, sì, lo so, ritratto la mandare foto, con il jukebox, è una cosa allucinante, si usa. Va bene, avanti Antu. Eia, ti stavo dicendo, ma cos'è, caldaia nuova c'hai tu? Mattino stavo dicendo, se hai la caldaia nuova. No, è uno scaldino, non è... messo al posto del boiler, dello scaldabagno, no? E quindi utilizzo quello. E poi, vabbè, la bombola a parte per la cucina. Il filtro messo gliel'acqua la caldaia, sì. Cosa filtro? Lo messo io. Ti posso parlare di qualche cingolo, qualche piccola? Guarda che nelle nuove caldaie ci vuole un filtro, ci vuole a monte. Perché sono un po' gare di rompiballe. Vabbè. Ma guarda, ce l'ho già, grazie a Dio ce l'ho già 3 anni, è un Asareo, grazie a Dio non mi ha mai dato preoccupazione, quindi. Ah, vabbè, a chi mi giochi remai che ci vuole il filtro a monte, se no ti rompono le palle. Poi ogni tanto controlla i flessibili, che non so se hai flessibili centralina, cosa vai. Ci sono maralette e fasciacci. Sì, ora hanno cambiato, perché sono futuriti. Quelli sono maledetti, noi addirittura stiamo prendendo quelli. Adesso sono usciti quelli arancioni da Bricom, ci sono. O se no noi li stiamo mettendo quelli in acciaio, quelli che non hanno problemi, sono particolari, sono. Li paga un po' di più, però non ti ci facciano mai, ti durano una vita. Bene, bene. Non sento sapere queste cose. Io faccio bagaglio un po' di tutto. Te lo sto dicendo, perché quelli lì, capo, non ti durano tanto. Ti si diventano rigidi e da poi ti si facciano nella giuntura. Sono rompimento di scatole, sono. E purtroppo, soprattutto, ci usi gas propano che è forte. In giro di un paio d'ore ti si seccano in subito. Invece con quelli là, non hai mai problemi, non hai. Vabbè. Va bene, Luca, riprendi. Cacciata avete, sì? No, io sono lì per lì, accorto. Ma avanti qua! Anzi, adesso che mi hai detto, ne approfitto e inizio a dare una mano a apparecchiare, dai, che tanto qua sono già ai fornelli, così almeno do una mano anche io. Va bene, dai, ci si riascolta. Grazie Antonio dell'info. E così ne terrò presente queste cose qua e quando avrò 5 minuti e se ce le avrò, perché io ho più tempo per gli altri che per me, non è che, però anche quello che ho fatto. Va bene, ti saluto Antonio, ciao Luca, ciao Claudio, ciao anche agli eventi della scultura, che tanto non ce ne sono, però va bene, vi lancio il mic a Claudio se ce l'hai, Claudio. Io ti sono tanto a mettere il ghiaccio. Anna. Ciao, buonasera, buon tutto. Ti faccio una domanda, poi ti lascio. Hai qualche base vintage stacco baratto da dare? No, quelli che ho, lo sai, è un regalo e non posso darlo. Io ti ho capito, vabbè, pensavo ne avessi qualcuno di tuoi personale, dai. Va bene, allora ti auguro buona cena, saluti a casa e ci riascoltiamo le prossime. Avanti Luca, se ci sei, se no riprendi tu anche. Sì, ci sono o non ci sono, sono qua comunque, sto facendo una cosettina. Ne ho uno però non è vintage, è quello il 48 modificato, che non so neanche se lo devo dare ancora le invite a Gianni, che gli avevo promesse, però mi chiamo le taglie. No, baracchini normali, no, ottimi, ne ho 2 o 3 anch'io dentro l'armadio. Mi servono vintage e base, capito? Vintage e base. Se mai riuscite qualcuno a sacco baratto che ne ha qualcuno, anche non funzionante, poi me li metto a posto io, capito? Le portate non si è messo male. Ahia, va bene, se sento. Cappa, fammi sapere. Mi cambio per Antonio per i saluti a Tino. Ciao, un abbraccio e saluti a casa. Buona cena. Cappa, salutoni Tino, ce la risentiamo alle prossimine, dai. Ehia, va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao, con la prossima. Ciao. Hai vintage, ti stai dando, Cla? Sì, ora puoi già rifare la collezione, ne ho già 8. Sono tutti funzionanti, tranne il Comstat 23 Mark 6, che è molto, molto raro, introvabile. Che non riceve, ma lì è sicuramente un problema di valvola. Adesso andrà da Gianni Capri e si arrangerà lui. Che lui queste cose le sa fare, io non ci metto mani perché sono Sintex, ho preso la Zao 4, ieri ero con l'Inoiz, adesso devo fare ancora, Luca mi deve fare appena si libera da questi lavori che sta facendo, mi deve fare il, la connessione al, al Pace, al 2003, guardate, poi sono tutti, tutti attivi, e lì manca solo la connessione microfonica e basta. Cavolo, guarda, quando era sano, era sugli apparecchi a valvole, era bravissimo mio zio, era. Ma bravo Veromi, ne ha aggiustato uno poco di quella radio. Ma va, poveretto, non, non esegui più. Beh, io quando ho iniziato c'avevo qualche valvolare, lo portavo da Dino, via San Francesco, poi è morto, non, non ho conosciuto più nessuno, c'era anche Panther, c'erano tanti che facevano questi lavori, capito? Poi niente, vabbè, io fortunatamente valvolare ne ho pochi, ne ho solo due, il DAC e il Comstat. Gli altri sono tutti transistorizzati, però adesso il Comstat lo, lo aveva Gianni e si arrangia lui. Il DAC e la valvola me l'aveva dato lui, è perfettamente funzionante, c'è molto bene, ottima ricezione. Ho cambiato le colonnine, gli altoparlanti che ci sono, li ho trovati, erano sono da 4 ohm, capito, quelli rettangolari che sono molto particolari, li avevo trovati, un negozio di cose, di musica. E niente, adesso sto cercando qualcun altro, sono sempre alla caccia del Simba, se lo trovo, maledetto, l'ho trovato, però dagli Stati Uniti me l'ha trovato Gianni, ma è un casino a doganare, fare, c'è solo 60 euro di trasporto, più c'è lo doganamento, la radio il prezzo è interessante, 120 euro, però poi alla fine ti costa 250 euro una radio del genere, no? Non me la sento buttare soldi così, capito? Ma è una bellissima radio. Bellissima radio, veramente molto bella. Va bene, va bene. Avanti, Lucarie, cosa stai facendo? Mangiando. No, guarda cosa vuole il telefono, aspetta. E io, va bene. Capito tu. Ma è una, un buon po' di merda, costoso, ma comunque. Ci ho messo delle vestire, le fondo fondo su queste radio vintage, perché c'ho la base adesso. Ho fatto un grande lavoro, ho separato gli HF e i baracchini, quindi una base me la sto dedicando tutta a quella radio, ho tomato la foto, mi pare molto ordinata, molto, molto bella, con ogni radio però con microfono a tavola, sto sfondando più il microfono che in baracchini ci picchia. Che si tratta di cozzane, perché poi tu li metti su cittadini così, eh? Adesso sì, la maggior parte sono tutti MB+5, poi ho comprato un MB+4 per la connessione a quell'altra radio, poi c'è un po' Simpson, che è il microfono originale, la base del Simba, proprio infatti sto cercando la radio, e poi c'ho quello dell'iGain, che è originale dell'iGain, è quinto la, la base sempre, quindi insomma devo trovare una di quella radio per abbonare il suo microfono. Il Pony, vabbè, c'ha il suo microfono originale, il Comstat c'ha il microfono originale, alcuni c'hanno il microfono originale, però adesso metto la caccia di qualche Turner, capito? O Turner più 2, o Turner più 3, vediamo un po' qualcosa del genere da abbinare a queste particolari, beh. Però me la giù che un sacco di soldi ci vuole, ma è vabbè, pazienza. Voglio completare la collezione, avere almeno un 10, 12, 15, una cosa del genere, tanto posto c'è, o basta, poi mi fermo, una rimessa all'altra naturalmente, di, insomma, quelle, quelle più rare, vai, ne ho già un 3 o 4 rare, gli altri sono, insomma, già si trovano. Non ancora tutto quello modificato, ce l'hai più? No, l'avevo dato a povero Giampaolo Silvestro, un'anima. A lui e Giampaolo poi l'ha data Gianni Bischetto che c'era nella, nella barra pesante. No, ma tanto non ne uso io, non, non mi interessa a me andare a parlare nel 45 in città, non lo puoi usare, vintage veicolare, ne ho due o tre veicolari. Però lo so mettere l'armadio, non voglio tutti i budget, capito? Adesso bisogna portare l'alimentazione a 12 voci nell'altra scrivania, nell'altra base. Quindi il cavo lungo, rosso e nero, no, non mi interessa. Tutto a 220. Ho fatto fare un quadretto da elettricista, dal mio ex collega. L'ho messo sotto, ho tassellato il muro, ci sono otto agganci, normali e industriali, diciamo, là, quelli lì, bello con l'interruttore che si alimenta, quindi lo puoi disattivare, spegni la lì, si spegne completamente tutto il quadro, 220. Ho fatto un bel lavoro, là, capito? Così non fai con l'alimentatore, ecco perché ti ho detto lì, in quella base, quando usi i baracchini, non ce n'è lineare, perché lineare va alimentato a 12 volt, e lì non ce n'è alimentazione a 12. Ecco perché non mettere anche i baracchini. Ah, capo, ho capito. Però con i baracchini magari vintage ci vuole l'alimentatore, o qualcosa del genere. Ma adesso sono belli, dai, cavolo. No, io purtroppo qua ho questi, cosa faccio? No, qua non avrei posto io per metterle, cioè magari una solo grande, boh, ma non di più, perché non avrei il posto, cavolo, per mettere il radio. No, sono belli, ecco, quelli che ho sono nuovi, tutti funzionanti, uno più bello dell'altro, non c'è problema. Sono tutti a 220, non ne voglio a 12 volts, capito? La parte 12 HF, questa la facciamo adesso, e ci sono le due linee cable e basta, non c'è altro. Il resto sono tutti baracchini nell'altra base. Infatti molte volte mi siedo lì, accendo un baracchino, parlo col baracchino, adesso c'erano questi qua accesi, perché nonostante anche se non li uso, lascio accesi, come sempre, anche se non creano problemi questi come il 440, però li lascio accesi e al momento che mi serve sono già pronti a trasmettere, comodo. No, ho fatto un bel lavoro, ho fatto veramente un bel lavoro, c'è un commutatore comodo da una base all'altra, capito? L'antenna è sempre la stessa, però me la porto da una scrivania all'altra. Scappa, hai fatto un bel crack, cosa? Cioè, hai fatto non bene, no, benissimo hai fatto. Sì, è andato a Monte Oro, certo, che è San Francesco, non so, dovevo fare le commissioni. qui, li ho fatti su già 9:20, 10:15, 10:10 sono venuto a casa perché poi non si può più uscire. E ho fatto la puntura a Anna prima di andare. Ah, io la faccio lì per dormire stanotte. Cioè, già dal diabete. E Anna la pancia, la sta facendo per le preparazioni. Come coagularsi il sangue, capito? E io la non sono invasiva dalle punture. Ah, lei è farina. Io l'aria se le fa lì già da un po' di tempo, con la trite. Beh, glielo fate anche a mamma, vuole dire, però... Cazzo, quell'acqua è più grande, mamma mia. Lo zutto mi viene. Beh, infatti quando ho fatto la puntura, ma che voglio abbaidare. Ma dice, me la faccio io, no? Là. Dici, dopo che hai fatto la puntura a mamma, c'è un impegno, per favore. Se non c'è la SVC Pack non gliene compro. Allora. c'è questo qua. Aspetta un attimo, questo, oh, questo qua. Costa 56,90 col service pack. Lo sei convinto che sia un G6, boh, io non me ricordo. Dice che si accende, aspetta. E tanto fai quello e vado a fare contro la mamma. Ma che telefono è questo? Cosa? Aspetta, che telefono è? Questo qua, questo che si è rotto. Ehi! Sì, non mi ricordo, boh, dice che se si accende. Non so se si accende, vediamo, boh. G36, sì, già questo, Galaxy. Galaxy. Sì, è un Samsung Galaxy, G36. Come si chiama? Allora, te la voto a Luca, vedi? Ma sono troppo delicati questi telefoni. Ehi, quando... Ecco, Luca, sì, questo è un Samsung, è più grande del mio. No, non è mai lui su Apple, mamma mia! Cioè, chi si facciano prima di subito si facciano? Chi si cura me, dammi? Cosa un sacco di denaro, secondo me so telefono non si fanno con nulla. Guarda, io questo che ho è, mi ha regalato l'azienda praticamente, me l'ha lasciato l'azienda. E ti consiglio che ce l'avevo un anno. Quindi facciamo che ce l'ho 4 anni, se trovi che è nuovo, non c'è un graffio, niente. Perché loro lo mettono in borsetta, mobiliano, l'appoggiano, lo vasini. Io no, io già il telefono lo odio, mi sa stesso, quindi rimane molto fermo, appoggiato, eccetera. Quando ce l'ho appresso me lo metto in tasca, e loro sono molto più disattenti, capito? È per quello che mi reca giù. Vado in induzione, ho battuto la televisione, cosa ne fate se il telefono in alto all'anchi? Ti alzi, non te ne accorgi, boom, e te ne ingaggi il telefono intero. Senti, non è il tavolino, cazzo. Se c'è il tavolino, ce ne sono due tavolini, uno dove c'è la lampada, lo puoi appoggiare lì, l'altro ce l'hai di fronte centrale, lo puoi appoggiare lì, no. In alto all'ingoscio c'è un buono nel telefono. Poi ce ne bisogni, si dimenticano che c'hanno il telefono, non è cosce, ne cade intero e rifaccia. Quello di Varia. Questo nuovo che è un Samsung di ultima generazione, mi dirà Luca, senti io che c'è furubile, non è caduto dal letto, che c'è, ma si buco. Oh Giulia, ti così so, però questi tipo quello che ho io sono più resistenti, sono fatti in policarbonato, mi pare. Anche se te scende in terra, non si, a me me ne è sceso in terra, non si è fatto nulla. Ho capito, tu, può succedere che lavorando, io a me lavorando mai, io ce l'avevo sempre in tasca, oppure tenevo dentro il borsello, capito, c'avevo il coso, non tutti sempre nell'orecchio, quando squillavo lo sentivo, lo toglievo dal borsello e rispondevo. Io ce lavoravo molto col telefono, ne avevo incomuni per gli squillenti, però non lo tenevo mai in mano. Lo tenevo sempre dove è un po' era custodito, e infatti è nuovo, infatti mia moglie dice, tu c'hai 4 anni tu è nuovo, grazie, ma io lo uso in una certa maniera, in un'altra, cioè ti gocchi, ti ho buono il cuscino, il telefono, se il gatto mi va il telefono sotto il cuscino. Guarda, un mio amico se ne ha comprato uno, che se tu li cura a terra non li fai niente, non li fa assolutamente, è infrangibile, pure un girurapi con leva, non li fa niente, non so cosa vuol dire niente, ma niente per me, cioè l'ha fatto pure lui, l'ha preso, se l'ha conto così, non si è fatto nulla, ma è grosso però, Io ho capito, c'è cioè uno che le piace la telefonia, le piace avere un bel telefono, che ci fa tutto, va bene. A me, Antonio, ne potrei comprare uno anche da 5, 6, 700 euro, non me ne faccio niente. Non mi interessa proprio a me il telefono, per me il telefono è una cosa che serve per comunicare e basta. WhatsApp, perché è un sistema di comunicazione, capito? Breve, mandi foto, fai, eccetera. Ma del resto a me non me ne fotti nulla. Io ho contratto con la team, pago 15 euro al mese, capite? E posso avere tutto, c'ho tutto, ma non me ne frega niente, cioè non lo uso proprio. Io rispondo a lui e comunico solo su WhatsApp, per il resto non vado su internet, non me ne fotti nulla. Io sono fuori dal mondo, non mi interessa a me queste cose. Tanto è vero che ne ho tolto anche il computer. Io a casa non c'ho più computer funzionante lì. L'ho staccato, disretto la Windows 3, boh, basta, non mi interessa, non me ne fotti nulla. No, non è perché costi, cioè, ha costato già quanto costa il telefono, 130 euro, però è robusto perché siccome è in giro il figlio piccolo, lo danno al figlio piccolo, c'è il vizio di cudire la terra, pure è di macchine, vabbè dare i cartoni animati, pure è di macchina a dargli il telefonino, allora si è comprato questo telefonino robusto, anche se lo tiri a terra non ci fa niente, è molto robusto come tipo di telefono, anche quello mio, anche quello mio è fatto in una maniera che non si sfascia. Sì, sono sempre delle macchine, sono sempre degli strumenti, chiamano come voi, che è chiaro che se cade per terra si può rompere, capito? Ma fino a quando, ti ripeto, se rompe un telefono da 130 euro può anche andare bene. Mia figlia ha il telefono che ha l'apparato 450 euro, capito? E per una tua negligenza, perché non stai mai attenta, una puzza che c'è da sopra, ha cambiato tutto il display, tutto completo, Luca, ha fatto un bellissimo lavoro, capito? Se lo davi ad un altro, venivo lì di vento, quindi, meno male, ben venga che c'è Luca e una mano ce la dà, quando si facciano queste cose. Però è sempre straccubarato, nel senso che te lo fa, si prende i suoi soldini per il lavoro, ma a seconda chi lo dai, sono cazzi tuoi, capito? Quindi bisogna stare attenti, se il telefono oggi come oggi, e ti ce l'ha, tu prendi mia figlia ci lavora, c'ha tutto il gruppo di lavoro, c'ha tutti i fornitori, c'ha tutte le cose sue, c'ha la banca, c'ha tutto, fa tutto col telefono, si guarda film, mi pare che abbia 50 giga, adesso non mi ricordo quanto c'ha. Fa tutto col telefono, tutto, tutto. Io non ci vado mai a caricare il telefono da nessuna parte. Va, caricami il telefono, vado i soldi e me lo carico dal suo telefonino, capito? Quando glielo do, a volte la brucio. No, questo tipo di telefono qua, lui l'ha, ti stavo dicendo, questo amico mio l'ha comprato per questo motivo, perché Eddie, vabbè, non so quello dei bidui, va a dare il telefono in mano, gli fa vedere il cartone animato, ma un bidino gli dà di capo, l'altro gliel'ha rotto, ma quello lì non ci riesce a romperlo, quello è resistentissimo, addirittura ha fatto pure la prova con leva ai nocchi a casa, non gli ha fatto nulla. Ma zero, è un bel grosso M, robustissimo pure. Già ci sono questi telefoni qua che sono forti, è la verità, non li facci mai. Sono fatti a prova di coso. Sì, ti ripeto, ci sono telefoni che magari hanno una resistenza superiore ad un altro. No, ribadisco, bisogna stare molto attenti perché chi ci lavora col telefono è ticcare per terra ci rompe, sono soldi, capito? Perché chi ci lavora ha un telefono buono, un telefono costoso, che rispetto a me non me ne fotti nulla, io basta che rispondo, c'ho WhatsApp, a me può essere anche una grandissima cagata, però questo è buono, questo che c'ho io, e un Samsung che va bene, ti ripeto, me l'aveva regalato l'azienda, quando sono andato via, sono andato a restituirlo e mi hanno detto non lo tenga, non si può. Però ti ho spiegato che per cambiare gestore ho dovuto fare un casino perché era interessato a loro l'abbonamento, capito? Quindi mi hanno dovuto lasciare la dichiarazione, non la volta, mi bomba per poter cambiare gestore, altrimenti non potevo farlo, ci volevano loro. Tutto qua, e vabbè, però è un sistema che piace, a me non ne odio di questa tecnologia di telefonica, di computer, ma il computer lo mail per queste cose così, ma non me la fucchiamo un battere adesso, capito? Perciò l'ho anche tolto, perché mi serve spazio nella base vintage che c'era il computer, ne ha divulgato, siccome il monitor è un bel grande, ne ho tolto e conservato, funzionante. E poi mi sono trattato e ho fatto la disetta a Windows 3, capito? E quindi adesso non c'ho proprio niente, nulla, se devo guardare qualcosa guardo dal telefonino, che posso farlo anche io, se devo guardare qualcosa proprio di particolare, e se no non me la fotti nulla. Oramai tutte queste cose ci sono, e via. Eppure io se voglio qua lo metto, mi è già predisposto qua. Il palazzo c'è, cioè internet lo metto, ma non aggiungo mai il bordo perché non mi interessa. Sono 25 euro al mese mi fanno pagare. Oh, da voi i telefoni più costosi sono i birmi che si facciano di più, io ho notato. Cioè, perché dipende che tipo di telefono è. Ma infatti, come sempre a me, è un telefono costoso, che è pagato un sacco di soldi, poi alla fine, anche nel tuo lavoro, che insomma, può capitare, che ti cala per terra, o ne ghiacci una bombola in atto, eccetera, ti si rompe, quindi conviene, perché ho un lavoro come il tuo, non da ufficio, non da un altro tipo di lavoro, avere un telefono che costa poco, che però allo stesso tempo sia funzionante in tutte le sue funzioni, capito? Che ti disimpegni, insomma, ecco, tutto lì. Capa, hai notato sempre, cazzo, devo partecipare mio, paghi su Airpol, più di una volta tu dipendi 50 euro per ciambare lo quadro, spaccato. Sceso così, sta subito spaccato, il mio me ne è sceso una volta, me ne è sceso, cioè un paio di volte è capitato anche, perché c'era la tasca aperta, non si è fatto manco un graffio, non si è fatto. Ci sono attivo, no, occhiata le cosa c'è, ancora ti c'è la notizia. Vabbè. No, questi giorni sono un bel da farato con mia moglie, un sacco di cose sto facendo, fa male anche la schiena, ho fatto mangiare tutto il giorno stanotte e poi a mezzanotte l'altra pastiglia, alle 6 domani mattina con la mia un'altra, no, lascia perdere. Vabbè, dai, poverina, dai, piano piano, già si riprende, dai. Guarda che la tadina non mi funzionava, perché c'era un bel, stava più bene, che tante da per un DVD che la deve ciambare, ecco. Non mi funzionava l'antenna della TV. Ha giubbato uno spezzone, ha giubbato, ha attaccato anche se del maracchino e funziona. E quale? Quella che hai? C'è la televisione. Allora cosa ha giubbato intelligentemente? Ha giubbato, devo vedere un programma, ero messo incassato, ora mi è giunto un colpo di genio. Ha giubbato, ha attaccato lo rosmetro, gli ha attaccato il PL al rosmetro, ho fatto come figura che si è attaccato l'apparecchio, l'ho sceso giù, gli ho messo il PL, l'ho attaccato lì giù, cioè gli ho messo lo spinotto dell'antenna normale ed attaccato e funzionava. Ha funzionato, funzionava bene. Caffa, non prende solo qui i canali col VHF, ma tutti gli altri già va bene. Sì, allora già funziona, non c'è problema. Kappa, ho fatto vedere, non riuscivo a vederla, mi stavo rompendo le scatole. E quando fa acqua qua, cioè normalmente non funziona tanto bene questa antenna della TV. Allora, per prendermi la televisione e biglio, passo lungo cavoglioso, attacco il PL qua, scendo giù, attacco l'antenna, qui faccio pure un video, attacco l'antenna, funziona la televisione. televisione. Hai visto, quindi già adesso funziona tutto, non c'è problema. K, quando non funziona, abbigliata come sa dello baracchino, la salivo. Hai un'antenna allarga banda, multibanda, come si dice. Una cosa, se si attacca la manto funziona. La televisione? Beh, è un'antenna verticale, vuol dire funziona. Già funziona, cioè, magari qualche cosa non va, però già funzionano ma stessi. No, ho notato che va. E se funziona vuol dire che già va bene. Andiamo, andiamo. Ha fatto anche questo esperimento, lui? Che io? No. Attacca l'antenna di Rubaracchino alla televisione. Oh, lui, è un Samsung Galaxy J36 Android. Ah, allora questa è una cazzata. È un J36 Android Samsung Galaxy J36 Android. È cosa? Sistema operativo? Sì, non lo so. Gappa. No, va bene. Non si vede tutto. Adesso non si vede, ma per me già si vede, me lo sto spegnendo. Accende. Non lo mettiamo a posto. Quello porta poco, lui. Buonasera anche a lei. Ciao Tony, buonasera. Quello porta poco, lui. Vabbè. Che colore è, nero o bianco? No, è dorato. Ah, gold? Allora, J3 2016. Ecco, 53 euro costa. Sì, è vecchissimo. Non penso che non viene l'aria, devo dire, com'è? C'è solo il vetro rotto. Funziona anche molto bene. Ciao Tonino, avanti, buonasera. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Luca. Aspetta, la televisione. Io ho invece il Samsung J7 2017. Dorato. Comunque tu, il mio costa, il telefono costa, cioè è costato 700 euro. Pizzica. Vabbè, a quel periodo costava il tuo. No, perché tutto niente, dopo questo che faccio io, va. Dopo questo qua. No, vanno bene quel telefono, questo è caduto proprio di piatto, dal fronte al vetro, ma si è filato, va. Va bene, però signori, io me ne vado nel salone che sto meglio, vi saluto tutti e ci sentiamo. Ciao Tonino, ciao Antonio e ciao Luca, fatevi buon proseguo, perché proseguo, ma io vado a arrogliarmi nel salone, se non me lo voglio recepire, no? Ciao a tutti, a domani. Ciao Claudio, molto venti, salutoni. E altri 5 minuti perché a nanna, perché domani si lavora. Ok, avanti Luca. Ehi, hey, ciao Cla, fammi sapere se lo vuoi fare. Non c'è problema, tranquillo. Vabbè dai, che io questo passaggio vi saluto che sono stanco. Stasera la mia 25 l'ho fatto riposare perché stava pulendo, stava facendo mezzo casino e niente, adesso me ne vado a nanna pure io. Ciao, buonanotte e alla prossima, ciao. Ciao Luca, ciao, buonanotte. Ha fatto bene, sono stato fatto riposare, a me. Fai un po' di ginnastica, davanti a tu. Ciao Lu, fammi sapere per quella cosa sempre. Ok, dai, ci sentiamo. E allora tu? E allora, Tony, come va? Tutto bene? Cappa, tutto bene. Oggi la porto torre, sono lavoro. Domani sono a Sassari e dopo domani sono in permesso, un giorno di fine, dai. Devo dire al dottore che questo viene da Milano per visitarmi nel disco e prende appuntamento per operarmi. Cappa, vabbè dai, piano piano, cosa si può fare? Pure lui sa vivoria, mamma mia. Vabbè. solo la visita a 150 euro, è un privato. E poi opera lui stesso, molto bravo. Meno male. Ma a capo è un casino farci fare quelle visite di me, non è facile. Già per una visita all'Ocimea non verrà lungo, immaginiamoci. Un casino eroe. Io tramite conoscenza un tuo numero ho chiamato, mi ha risposto da Brianza, vicino a Milano. Poi ho parlato con lui, mi ha dato appuntamento per lunedì che sarebbe oggi. Ieri che era domenica mi ha chiamato, mi ha chiesto umilmente scusa perché era domenica, ma doveva comunicarmi che purtroppo l'aereo non partiva per la Sardegna, per Londino, quindi mi ha detto spostiamo l'appuntamento a mercoledì. Mi va bene? Certo va bene, ha fatto bene a avvisarmi. Tutto qua. E non sono soddisfatto, dai, sono tranquillo. Quindi dopo domani andiamo a farci questa visita. Gli porto il dischetto, la risonanza magnetica. Insomma, tra la risonanza e la visita te l'ho detto io, dai. Vabbè, però, cosa fai? Stai sempre male. Ecco, che cosa bisogna fare? Antonio, io per la salute mia non guardo i soldi, capito? Grazie a Dio. Sto lavorando, non mi manca niente. Sì, beh, in qualche maniera bisogna cavare natura, in qualche maniera bisogna toglierne i piedi. Cosa fai? O mio pomimi. So io quello che sto passando. Da 5-6 anni a questa parte. Fare cure, sì, ti passano 2 anni e poi ti diviene più forte. Insomma, adesso invece per una ce ne ho 3. Una grande e 2 piccole. Quindi basta. E poi ricordi una cosa, te le devi operare per forza. Perché dove sono queste rene del disco ci sono 3 membrane. Una me l'ha già rotta. Ne ho 32 ancora no, grazie a Dio, perché ho fatto una risonanza. Se arriva la terza ti rimani paralizzato, non so se ti va bene. No, no, ma anche troppo hai aspettato, cavolo, hai aspettato anche troppo. No, vai e fatti curare subito e fregatene. Non mi dovrei curare, a operare, adesso me la fa laser, anestesia locale. Un'ora e mezzo, quello che è, poi, quando esci da lì, stai già uscendo a piedi e sei tranquillo, sei già sano. Sì. Oh, ci vuole. È così, ci vuole. Ma te volevo chiedere, ma tu qua c'è un fratello latte dolce, c'hai o... Oh, Tony? No, negativo. Mio fratello abita a Sassari Vecchio. Ah, capa. No, pensavo che aveva un fratello latte dolce. Cugino? Cugino? No. Ah. No, pensavo che aveva un parente lì. Beh, ho mia sorella che abita alla Bretellina. Mio figlioccio ha latte dolce. Quello che hai conosciuto tu. Ah, capa, sì. No, con lo stesso cognome. No, negativo. Allora, va bene. Oh, io conosco Attore, conosco, con lo stesso cognome. Non so se lo conosci tu, Attore. Capita lì alla latte dolce. No, non è parente mio. Ah, vabbè, pensavo che eravate parenti. No, negativo. Cappa. Comunque, ritornando al coso, hai aspettato troppo, dovevi farlo prima, cavolo. 6 anni, un bemme. Ma, capito, veniva, facevo le cure, le lezioni passava, poi quando mi riveniva facevo le lezioni non mi passava più, allora cambiavo metodo all'ospedale, mi davo altre cure con la figlia. Mi passava per 1-2 anni, poi di nuovo veniva, insomma, un casino. E allora, vai, fai, cosa devi fare? Vai e fai questa operazione, almeno è meglio. Mio zio era stato operato a questa roba qua, ma non una volta, non due volte, e lui era più predisposto. No, io prima di operarmi ho girato, fino a che, insomma, ho trovato le persone che l'hanno operato proprio lui. E quando l'ho nominato, io lavoro in tutte le scuole superiore di tutta la provincia di Sassari. Ho nominato questo dottore qua, cognome, tutti sì lo conosciamo, è molto bravo. A parte chi mi ha indicato, hanno operato anche lui, quindi. Addirittura. Capa. È molto conosciuto perché viene in Sardegna. Se opera in Sardegna, io sono Alghero, io sono l'uomo più felice del mondo. Capa, meno male, dai. Perché molte volte, sai, secondo gatti in docca, mamma mia, meglio che ci sia una persona brava che faccia questi lavori qua. Poi, se è necessario che non si trova qua, o che lui non viene qua, si va fuori, si va a Milano, dov'è, si opera lo stesso, però male, uno non deve stare male per una cosa del genere, assolutamente. No, mai a Sassari mi sarei mai operato, e neanche in Sardegna, assolutamente. Fuori, questo è Brianza, Milano, quindi mi va troppo bene. Lui opera fuori e opera pure qua Alghero, penso. Viene qua Alghero a fare queste visite. Adesso vediamo dopo domani cosa mi dice. Vai là e te lo puoi fare là. Cioè, o che sia là o che sia Alghero, l'importante è che sia una persona competente, perché non so cose da buffo un anno. Sbaglio se ci insedi a rotelle, mi amare che rivenga. No, ma lì non ci potrei mai andare perché a tu, coronavirus sono ti fatto sbagliare in me, è un casino. E allora viene lui e lo fa lui qua. Vabbè, infatti. Bene, mira. Di radio sopra me ti sta arrivando. Ma a casa, sì. Come qua a casa? E beh, certo. Facciamo un colpo. Cosa mi hai chiesto se ti stavo arrivando sempre bene? Tu a me? Se la mia radio ti arriva sempre bene. Ho voglia. Capa, quello mi interessava. Tutto qua. Capa, sei più di 9:20 qua. A me interessa la radio, non il segnale relativo. Vabbè, non la radio è una cannonata. Beh, questo pane super si dica, è la perla nera del telefono, capito? Il numero uno. Noi ce l'abbiamo avuto, è una cannonata col superstar, è poco bumpava. Io c'ho il Galaxy, e sposa bene, a voglia. Cappa, noi ce l'abbiamo avuto quello lì, e c'ha lo collegavamo a un superstar, ma pumpava che c'è un coso. Neanche con questo, dai. Tu pensa, quest'estate arrivavo anche a Lecce, poi Bergamo, segnale non tanto, ma come radio ultima, super. Tu non sono riuscito a fare un collegamento da quando giochi in hockey. No, io nella mia vita ne ho fatto tanti. Io avevo tre bussoni grandi di QSL. Però adesso non se ne fanno più QSL, adesso è tutto diverso, capito? Ecco perché non mi piace più farle. Sì, ci sentiamo. Due o tre parole, poi ciao. No, io qualche quandata me l'ho fatta in quei posti. Cioè, come addirittura non manco un ghisano con un roccio di coporo. Ma con questa qua sarebbe stata una soddisfazione, perché sono sicuro che arriva a bomba. Ma io tantissimo tempo fa, ogni notte entravo sul canale, mi sembra 38-42, non mi ricordo, e parlavo con Martina è una donna di Parigi, sembrava una telefonata, ogni sera per una settimana, e lì stavo imparando l'italiano. Sua. Hai andato a giocare, mi ha inteso un tedesco, spagnolo non mi ricordo, spagnolo proprio zero. Schiella, boh, ma questa è una propagazione strana. Guarda, io il più lontano che sono arrivato, Indonesia, Jakarta, testimone, e poi Stati Uniti d'America, Connecticut, Brasile, ce l'avevo tutti. Spagna aveva le balle piene, Francia lo stesso, Irlanda, Belgio, proprio Svezia, Finlandia, Norvegia, chi non ho mai copiato, vedi, la Russia, Cina, l'Asia, mai sentita. Bisogna essere OM per collegare certe persone, capito? Col baracchino aspetta la propagazione, quando arriva, arriva, quella che ti dà ti prendi. E poi, poi ho fatto Algeria, Africa, Vienna, l'Austria, l'Italia ce l'avevo tutta. Ma ti ripeto, tre bussoni di QSL. K. Sì, ma io mi ricordo che anche d'inverno qualche volta, alle belle giornate, se sentiva qualcosa, ma vanno a gente giù nuda, ma che rubo giù va, che mi posso far sentire, cavolo, non tengo più nessuno. È tutto cambiato, hai visto che GB prima eravamo tanti, adesso siamo pochi, è tutto cambiato, non è più come prima. Ma tu il codice internazionale conosci? Veramente assai. Come Alfa, Bravo, Charlie, eccetera. Ah, sì. Non ho mai passato parecchio tempo, ma ho... Ottonia, è passato un po' di tempo. Prima era sempre con le ghende. Con chi sul roccio di Cobola, ma che va già a una manna, non si tende più nessuno. Purtroppo. Devi aspettare quest'estate che viene, altro anno, Antonio. Quando c'è propagazione, le onde si propagano e quindi... Vedi, questa è la protorse. Il mare fa da riflesso, hanno molta più propagazione di noi. Ma cavolo, boh. Io mi ricordo, ma anche di questo periodo, qualche volta che facevo una bella giornata, e cominciava tutto un ciabotto, come da... Dagando giochi in occhino, gente su nutta, nutta. E altri tempi sono, Antonio, devi avere pazienza, capito? Piano piano, poi vedrai che anche tu sentirai molte persone. Un po' di pazienza. Da molto ci abiti. Sto facendo il quinto mese. E tu lo vedi? Cavolo. Sono venuto qua che c'era ancora caldo. Ho detto prima che sono abitati. Ma di notte. E me come zona meglio, come antenna. Ma diciamo che là va via un roccio di coppolo, lo conosci la torma, quella che è alta un metro. Un papo mi pure in chieve, però non è che era chissà come. Qua c'ho l'antenna come si deve. Però nel frattempo mi faccio sentire dappertutto, no, non ho problemi di ricezione, di trasmissione. Vabbè. Io adesso l'inverno non faccio più niente, sta solo piovendo, casino. Non ho mai un po' di sole, abbiamo visto, però so che piove di nuovo. Adesso primavera, come inizia il tempo, mi installo l'altra antenna. Sempre 58 donne. E cosa poni? Non lo so, la comprerò. Guardo su internet. Cappa. Ci sono tante antenne belle. Avevo pensato questa Ringo, ma ti dico la verità, sono contento di quella. L'altra mi ha un po' deluso.